la giurata fede debbo tradir. Ne voglio altra mercede, ne voglio altra mercede, questa io la te ne devo. Già mi struggio io l'amor della diva, ma poc'anzi ti mirai, qual non ti vidi mai. Quel tuo piante fallace speranza, la regina farebbe grazia d'un cadavere. Come tu mi odi. Oddio! Così, così! Via, guida la scorta ultima ai condannati. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia. Là, si dritta un pativo. Al tuo Mario, per il tuo voler, resta che un'ora di vita.